2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci potete raggiungere attraverso la nostra posta elettronica 2024@radio24.it. Oppure potete raggiungerci utilizzando Twitter o anche Facebook. Iniziamo, come spesso facciamo, con alcune notizie selezionate durante la settimana in breve nelle nostre Digital News. Digital News. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno trovato un accordo politico di principio sul trattamento dei dati dei cittadini europei che vengono archiviati negli Stati Uniti. Il nuovo meccanismo si chiama Privacy Shield, scudo per la privacy, e si sostituisce al Safe Harbor che ad ottobre la Corte Europea di Giustizia aveva ritenuto non più adeguato. I dettagli del nuovo sistema dovranno però essere definiti nelle prossime settimane, quindi attenzione, molta prudenza. L'accordo è comunque molto importante, soprattutto per le aziende, sia europee che americane, che avranno quindi uno schema certo a cui aderire. Però molto deve essere ancora fatto perché vanno scritti i dettagli di questo accordo. Una serie di acquisizioni interessanti ci sono state questa settimana o sono state annunciate. Iniziamo da Just Eat, che è una delle principali piattaforme per la consegna di cibo a domicilio. Adesso c'è, direi, oltre che la moda, anche il business della piattaforme per riunire tutti coloro che fanno consegne a domicilio. Allora, Just Eat ha annunciato di avere acquisito le attività di Rocket Internet Food Panda in Italia, Spagna, Brasile e Messico per 125 milioni di euro. In Italia i siti acquisiti da Just Eat sono Hello Food e Pizza Bo, che sono appunto siti che sono piattaforme per la consegna di cibo a domicilio. Just Eat, lo ricordiamo, è un sito dove si possono fare ordini che vengono poi evasi dai singoli esercenti, quindi fa solo da tramite. Ad esempio, invece di ordinare da una pizzeria direttamente, si può ordinare da questo sito internet che poi trattiene una commissione. Digital News. Altra acquisizione l'ha fatta Microsoft, che pagherà 250 milioni di dollari per acquisire la britannica SwiftKey. È una società nota per aver inventato l'omonima tastiera virtuale per smartphone, in grado di imparare le abitudini di scrittura dell'utente grazie ad un algoritmo di intelligenza artificiale per suggerire in anticipo le parole che uno vuole scrivere. Più facile a provare che a spiegarla, comunque è molto semplice. SwiftKey è già installata su 300 milioni di smartphone in tutto il mondo e l'obiettivo di Microsoft è, tra le altre cose, oltre che acquisire la tecnologia, anche quello di portarla sulla piattaforma Windows, che, visto che per il momento SwiftKey è disponibile solo per iOS e Android. Ma l'acquisizione più importante, che è anche ritenuta una delle più importanti degli ultimi anni, la messa a segno Cisco, che acquisirà per 1,4 miliardi di dollari Jasper Technologies, che è una società californiana specializzata nella Internet of Things, che Cisco definisce come la più importante piattaforma di servizi per la Internet degli oggetti. Adesso veniamo in Italia. L'italiana SIA, che è nota e famosa per aver realizzato la tecnologia che sta dietro al Bancomat, allora, ha rilevato il 69% della società che ha creato T-Frutta, che è un'applicazione che permette ai consumatori di ricevere premi in denaro acquistando i prodotti in promozione e provando l'acquisto fotografando lo scontrino. Allora, T-Frutta è disponibile al momento a Milano, in Brianza, a Modena e a Roma. In questo modo la SIA entra nel mercato del couponing digitale, quello dei coupon cartacei. Attualmente vale 70 milioni di euro nel nostro paese e quello dei coupon digitali è in forte crescita. SIA, lo ricordiamo, è anche la società che ha creato Giphy, che è il sistema di pagamenti peer-to-peer già utilizzato da molte banche in Italia. Un'ultima notizia riguarda la Commissione europea, che vuole accelerare l'assegnazione di nuove frequenze ai servizi di telefonia mobile. Quindi è un tema che riguarda tutti coloro che utilizzano uno smartphone o comunque qualcosa che si colleghi ad una rete cellulare. Ora, si tratta della banda dei 700 MHz che attualmente è utilizzata dalle emittenti televisive. Allora, la Commissione vorrebbe che questa banda fosse assegnata e messa a gara entro il 30 giugno 2020 agli operatori di telefonia mobile. Francia e Germania hanno già effettuato la gara. In Italia sarà sicuramente piuttosto complicato, visto il peso che il settore televisivo ha nel nostro paese. Però è interessante perché lo Stato potrebbe incassare 3 miliardi di euro. Le nuove regole dovrebbero essere approvate entro fine estate. La Commissione europea spiega che la banda dei 700 MHz è ideale per i nuovi settori promettenti come la Internet degli oggetti e anche per la tecnologia 5G. E tutto questo ci fa dire che c'è ancora qualche folle che pensa che si possa fare il DVB-T2. Beh, direi che questo annuncio dice proprio che per i broadcaster, per il broadcast, c'è sempre meno spazio e tutto lo spazio viene dato alla telefonia mobile. A proposito di smartphone, a proposito di telefonia mobile, questo è uno strumento che buona parte degli italiani ha in tasca, magari non tutti lo utilizzano con le applicazioni per navigare in internet, ma questo numero è in continua crescita. Allora, questa settimana alcuni numeri, alcune considerazioni su quello che gli italiani fanno con lo smartphone, sia per informarsi, sia per acquistare o anche per raccogliere informazioni su quello che poi acquisteranno. Dicevo, alcune considerazioni le ha fatte la School of Management del Politecnico di Milano attraverso uno degli osservatori. Allora, saluto Marta Valsecchi, che dirige l'osservatorio mobile. Benvenuta a 2024. Grazie mille. Voi avete presentato una ricerca che ci dice anche quanto le aziende stanno approfittando o non approfittando di questo spostamento di milioni di persone che sempre più utilizzano lo smartphone. Beh, innanzitutto, quanti sono? Sì, ci sono in Italia 22 milioni di italiani che ogni mese si collegano a internet da smartphone o da tablet. 22 milioni vuol dire uno su due della popolazione tra 18 e 74 anni. Sono pochi o molti? Sono tanti. Considerando che in Italia, comunque rispetto agli altri paesi, la percentuale totale della popolazione che si collega a internet è ancora bassa. Però ormai la gran parte degli utenti che utilizza internet lo utilizza anche da dispositivi mobili. Il dato ancora più sorprendente è che oltre il 70% del tempo che passiamo su internet lo passiamo dai dispositivi mobili, che sono effettivamente i dispositivi che abbiamo con noi in qualunque momento della giornata. Pensa che tra i 18 e 24 anni questa percentuale sale all'85%. Cioè il computer, il desktop quasi non c'è più. Quasi non c'è più. E anche tra gli over 55, che uno vorrebbe da dire, beh, ma loro utilizzeranno sicuramente ancora di più il PC. No, più del 50% anche per loro è già una fruizione da mobile. Quindi il trend è assolutamente elevato. Siamo andati a chiedere quindi agli italiani se lo utilizzano però solo per i social, per WhatsApp, per la musica o i giochi. In realtà 3 su 4 ci hanno detto che lo utilizzano anche per prendere decisioni d'acquisto, quindi per scegliere cosa comprare, dove comprarlo e da chi. Ecco, questo che mi sorprende. Allora, poi specifichiamo decisione d'acquisto fin dove si spinge, perché effettivamente uno per valutare un acquisto mentre è su un mezzo pubblico, mentre è in attesa, sta facendo una fila, eccetera, eccetera, posso capire che sia uno strumento, anche perché molto spesso è l'unico strumento che uno ha in quel momento e possa dire, beh, voglio vedere quanto costa un paio di scarpe, ok. Ma io dico, la cosa che mi sorprende è che molti acquistano effettivamente, giusto? Sì, il 10% delle vendite di e-commerce è già fatta dallo smartphone e questi dati stanno crescendo di anno in anno in maniera significativa. In particolare il 41% delle persone che navigano dallo smartphone hanno fatto almeno un acquisto, che magari è un acquisto del biglietto del treno perché in maniera urgente avevano bisogno di quell'acquisto, piuttosto che di un paio di scarpe la mattina alle 7 guardando le offerte che sulla mail arrivano. Quindi ci sono realtà che stanno crescendo molto dal punto di vista delle vendite che già vengono fatte dai dispositivi mobili. Comprare un viaggio è un po' più difficile perché richiede ancora un processo d'acquisto più lungo. Però c'è magari il biglietto aereo o l'albergo, sì. Sì, assolutamente. Sì. No, ma fin qua non mi sorprendo, perché ad esempio io devo dire che il 99% dei biglietti della metropolitana ormai li acquisto da smartphone, col mio bel QR code vado davanti al tornello e passo. Però mi sorprende che ci sia gente che acquista ad esempio l'abbigliamento sullo smartphone. Uno dice devo vedere, provare, ma magari sul desktop la cosa è un po' più agevole, ma sullo smartphone è incredibile, no? Sì, è incredibile, però succede perché una volta che l'utente si abitua alla facilità con cui è possibile acquistare su smartphone, poi diventa immediato farlo. La carta di credito è tendenzialmente già registrata dentro l'app e quindi diventa un'opportunità farlo davvero in qualunque momento e in qualunque luogo. Sì, in effetti è una strada naturale, uno ha questo strumento e molto spesso durante la giornata è l'unico strumento che uno ha a disposizione e da lì fa molte cose. Le aziende stanno approfittando di questo sia in termini di notorietà, quindi pubblicità, sia in termini di vendite vere e proprie, quindi le aziende fanno e-commerce e lo fanno anche per il mobile, perché un conto è avere il sito e-commerce, un conto è averlo adeguato. Io devo dire che a volte mi sorprendo che molte grandi aziende hanno un bellissimo sito fantastico, poi tu dici perché ieri sera ho visto questa cosa e voglio, mi sono perso un dato, vai a vedere dallo smartphone ed è un disastro. Ma dai vostri dati? Le aziende sono ancora una volta più indietro rispetto ai consumatori, però il 2015 ha dato un po', è stato l'anno in cui c'è stato un po' un cambio di rotta, proprio perché i numeri sono talmente sorprendenti ormai, anche le aziende che hanno poco traffico da mobile hanno un traffico che supera il 30% degli utenti totali che accedono, quindi non possono più ignorare questa dinamica, se no davvero si rischia di perdere business. Quindi quello che è successo è che nel 2015 la gran parte delle aziende si è messa a fare il sito cosiddetto responsive, ovvero che si vede bene, si legge bene da qualunque dispositivo, anche dispositivi smartphone con schermi più piccoli. Quindi le aziende stanno crescendo in termini di consapevolezza dell'importanza di fare marketing, comunicazione e vendite anche dai dispositivi mobili. Sono le grandi aziende, i grandi marchi? Sì, prevalentemente i grandi marchi, le aziende tradizionali, anche perché i cosiddetti pure player dell'e-commerce, pensiamo ad Amazon e eBay, ormai sviluppano mobile first, che significa che ogni sviluppo nuovo che devono fare, ogni funzionalità nuova del sito, dell'app, la pensano prima su mobile, deve funzionare, essere efficace per l'utente da mobile e poi in seconda battuta pensano al desktop. Le aziende più tradizionali, quelle che fanno evidentemente la gran parte del business invece sui canali fisici, ci stanno arrivando ad avere questa cultura. Molto più indietro le piccole e medie imprese che ancora hanno colto poco l'opportunità di essere presenti in generale sul digitale e evidentemente ancor più sul mobile. In effetti queste aziende, per piccole e medie aziende pensiamo anche al negoziante, vero? Sì, assolutamente sì. Anzi, per il negoziante è ancora più importante avere il mobile che non il desktop. Perché? Perché io quando sono in giro posso decidere di andare a mangiare la pizza da una parte o dall'altra, magari guardando le recensioni online direttamente dal mio smartphone. E quindi avere sfruttare l'opportunità di essere geolocalizzabile in qualunque momento con un bel sito e magari avere la possibilità anche di prenotare direttamente dal mobile è un'opportunità di business anche per gli esercenti locali. Però ti faccio una domanda sulla complessità di questo mondo. Vedendo anche il convegno che voi avete fatto questa settimana, se uno non segue questo mondo è veramente spaesato, perché tutto questo mondo mobile, pensando all'e-commerce, alla pubblicità, sta diventando molto complesso. Questa complessità, come può risolverla un piccolo negozio, una piccola azienda? Ci sono tante agenzie specializzate oggi che supportano anche una logica un po' consulenziale e anche a costi evidentemente accessibili per il piccolo negoziante l'opportunità di essere visibile su mobile, l'opportunità quindi di farsi... Quindi non è una cosa impossibile? Assolutamente no, anche da un punto di vista di costi è accessibile. La cosa più semplice ad esempio è che quando uno fa una ricerca da Google compaia immediatamente la mappa piuttosto che il numero di telefono, in modo che se io voglio prenotare il ristorante, per fare l'esempio di prima, faccio un clic e mi attiva la chiamata dallo smartphone. Sì, è vero che l'attenzione che io ho sullo smartphone è maggiore rispetto a quella che ho sul computer? Certo, perché lo schermo è più piccolo e quindi diventa molto più di impatto la comunicazione che io vedo lì sopra. In più lo smartphone è molto personale e quindi a differenza di tutti gli altri schermi, la televisione, il PC, che sono dei media e dei mezzi di comunicazione di massa, o quantomeno legati alla famiglia, più persone, quello è davvero l'unico dispositivo personale. E quindi fare delle comunicazioni profilate, interessanti per il consumatore, fanno sicuramente molto, danno molto più rilievo. Ecco, a proposito di profilazione, questo è uno dei grandi temi. Che cosa significa, per chi non sa, cioè che cosa si riesce a fare? Naturalmente stiamo parlando di una cosa che qui sì che diventa molto complicata, perché un conto è fare un sito internet che si adatta al mio smartphone, un conto è cominciare a profilare gli utenti, consegnare una pubblicità ad hoc per quell'utente, ammesso che io ci azzecchi, e magari addirittura suggerire un prodotto allo smartphone di quell'utente, sapendo che molto probabilmente quel consumatore lo acquisterà rispetto ad un altro prodotto al quale magari non è interessato. Qui ci sono due aspetti. Da una parte le medio grandi imprese italiane si stanno muovendo per mettere in un unico punto, in un unico database, tutti i dati che oggi hanno sui consumatori, che sono sparsi in tanti pezzi diversi dell'organizzazione. Ad esempio i dati sul comportamento sui social network, i dati sul comportamento sul sito di e-commerce rispetto alle cose che un utente acquista direttamente nel punto vendita, o ai dati delle nostre carte fedeltà che tutti abbiamo nel portafoglio. Già mettendo in un unico posto tutte queste informazioni, poi con gli strumenti oggi di cosiddetti di business intelligence, quindi degli strumenti tecnologici innovativi che consentono di fare analisi sofisticate su questi dati, è possibile estrarre dei cluster di utenti con cui andare a colpire poi con delle comunicazioni più mirate e conseguentemente più efficaci. Però è difficile. È difficile, ma è la vera sfida, è la vera opportunità. Io mi aspetto che tra qualche anno le comunicazioni proprio andranno proprio in questa direzione, quindi saranno sempre più profilate. La seconda cosa che volevi aggiungere? La seconda cosa è sul mercato della pubblicità. Ci sono delle società che aiutano a fare questo mestiere, quindi che analizzando il comportamento in rete degli utenti creano dei segmenti di utenti che hanno interessi affini e che quindi potrebbero essere più interessati di altri a comprare un determinato prodotto, e quindi aiutano le aziende a investire in questa direzione. Dal vostro osservatorio, queste tecnologie ci azzeccano? Funzionano? Allora, sono in fase di sviluppo, quindi questo è uno dei grandi trend tecnologici, viene chiamato big data, no? È una parola che si sente usare tanto. Sicuramente sono delle tecnologie in evoluzione, miglioreranno nel tempo, ma già oggi chi le utilizza ci dichiara di ottenere risultati significativi superiori a quelli ottenuti senza l'utilizzo di queste tecnologie. A proposito della capacità di profilare l'utente in modo veramente con nome e cognome, perché se io mi registro dichiaro chi sono e in quel momento insomma sono io che accetto tutta una serie di vincoli di privacy, oppure in maniera anonima. Allora, c'è un trend che mi sembra interessante a proposito del mondo mobile, che diventa sempre più importante: la profilazione, si dice in inglese, poi lo traduciamo cross device, cioè attraverso i vari terminali. Se ho capito, ma poi lascio a te spiegare, si è in grado di capire se io, o in modo anonimo, oppure se sono sempre registrato col mio nome e cognome Enrico Pagliarini, mi collego dal computer quando sono a casa, dallo smartphone, e si comprende la mia giornata tipo sui vari strumenti. E questo poi come si rispecchia nell'offerta commerciale, sia pubblicitaria che di e-commerce? Allora, questo è importante, perché il fatto che io possa raggiungere lo stesso utente sui diversi dispositivi senza mandargli magari la stessa comunicazione due volte pensando che sia un utente diverso aumenta l'opportunità di essere più efficace, di disperdere meno percentuali di investimento, e tra l'altro si fa un beneficio anche al consumatore, perché si evita in qualche modo lo spam generico, perché io appunto non ho le strumentazioni per poter riconoscere che invece sto sempre parlando a Enrico. Quindi questa è una delle opportunità che si sta sviluppando, e però sempre tutto in maniera anonima, quindi non è possibile oggi decidere che io mando una pubblicità specifica ad Enrico. Lo manderò, anche se sono registrato? Se sei registrato e hai dato il consenso a ricevere da quell'azienda delle promozioni, puoi evidentemente riceverle. Altrimenti si lavora attraverso queste soluzioni tecnologiche di cui parlavi in maniera aggregata, quindi con dei segmenti che rispondono, hanno tutti un determinato comportamento e quindi possono essere maggiormente influenzati da una determinata pubblicità piuttosto che un'altra. Sito mobile, cioè sito che si adatta al mio smartphone, o applicazione? Cosa voti tu? Cosa preferisci? Allora, dipende dagli obiettivi dell'azienda. Per gli utenti più fedeli, che sono anche quelli che poi mediamente spendono di più, spendono più tempo in relazione con la marca e spendono sull'e-commerce anche di più da un punto di vista proprio economico, è molto efficace l'app, l'applicazione, perché ha un ambiente con un'esperienza che garantisce un'esperienza all'utente decisamente migliore, più efficace del sito web. Però il sito web bisogna averlo, è proprio la base, quindi la prima cosa da fare in azienda oggi, visti le percentuali di traffico da smartphone, è avere un sito responsive, un sito che si adatta e si legge bene dal proprio dispositivo mobile. Il sito serve ad esempio per intercettare tutti gli utenti che fanno una ricerca da Google e che altrimenti si perderebbero se poi il sito, anzi si infastidisce ormai un utente che... Se non sei sui motori di ricerca non esisti. Non esisti, e soprattutto se dal motore di ricerca io arrivo al tuo sito e poi non riesco a leggere, a trovare le informazioni, in qualche modo oggi l'azienda non ne esce con una buona reputazione. Quindi la prima cosa è avere il sito per raggiungere tutti gli utenti potenziali e anche gli utenti che hanno già fatto acquisti, ma in maniera più occasionale. E poi l'applicazione per le medie e grandi imprese è sicuramente un'opportunità, perché le aziende che hanno già delle belle applicazioni fatte bene, che funzionano, da aggiornare costantemente, poi hanno dei ritorni e dei benefici in termini di fidelizzazione della clientela. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda anche il sistema industriale italiano del paese. Questo riguarda l'Italia, ma riguarda anche l'Unione Europea in generale, molti paesi europei. Non c'è il rischio che oggi, più che un rischio è una realtà, ma insomma guardando anche un po' al futuro, che vincano i grandi player internazionali, ma vincono alla grande, perché se io penso alle app, ci sono vari dati che ci dicono che un consumatore ha un numero limitato di app, o comunque guarda quel numero limitato di app. Quindi se io sono un'azienda e voglio fare una strategia mobile, riuscirmi a infilare in quella soglia di attenzione del consumatore non è sicuramente facile, e questo vale in generale anche per il mondo della pubblicità, dell'e-commerce, eccetera eccetera. C'è il rischio? Il rischio c'è, perché i numeri oggi, pensiamo ad esempio ai numeri del mercato pubblicitario, la gran parte degli investimenti pubblicitari finiscono nelle mani degli over the top. Cioè, però, due in particolare, Google e Facebook, adesso i dati che abbiamo presentato l'altro giorno sul mobile advertising, quindi sugli investimenti delle aziende italiane in pubblicità sullo smartphone, l'80% è nelle mani di fatto dei social network e di Google. E quindi in realtà le aziende media in Italia devono cambiare anche l'approccio culturale su come si veicolano i contenuti e quindi come si veicola la pubblicità, che sia una pubblicità ad esempio profilata. E quindi anche le aziende media oggi devono essere in grado di dire all'investitore chi è che sta guardando, che sta leggendo quella determinata news, in modo da poter dare la possibilità di fare advertising profilato. Quindi questo è più che un rischio, una realtà anche per i prossimi anni, secondo te? Di sicuro i grandi attori internazionali hanno e avranno un ruolo significativo nel mercato, anche perché hanno delle economie di scala globali su cui possono far leva. Questo non significa che bisogna tirare i remi in barca, evidentemente serve lavorare a livello di ecosistema, quindi qui diventa fondamentale anche il ruolo delle associazioni di categoria in Italia nel riuscire a creare anche le giuste competenze e la formazione giusta nelle aziende tradizionali, sia nel mondo media che evidentemente parlavamo prima di retail, di trasporti, di aziende di qualunque settore, per non perdere la partita e anzi al contrario sfruttare il fatto che i canali digitali aprano l'opportunità di essere globali, e quindi anche un'azienda italiana per esempio può sfruttare il nostro Made in Italy per fare export sì, in sì. maniera molto più immediata. Anzi, ci sono degli esempi assolutamente eccellenti. Tu compri scarpe o abbigliamento online, online più, sul mobile? Qualcosa sì, assolutamente sì. Tanti dei regali di Natale sono arrivati da lì. Pensa un po'. Bene, grazie a Marta Valsecchi per essere stata con noi. A presto, buon lavoro. Grazie mille. Adesso cambiamo argomento e saluto David Orban che torna con noi in questa puntata. David, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Tra le altre cose, tu David insegni e sei advisor alla Singularity University negli Stati Uniti e pochi giorni fa avete annunciato l'arrivo in Italia e avete annunciato il chapter italiano della Singularity University. Che cosa significa? Per la precisione, Singularity U Milan, che è il nome, è il chapter di Milano. Essendo il primo in Italia, raccoglie naturalmente interesse molto ampio da tutti i territori, però spero che molto presto si apriranno altri chapter a Roma, a Verona, a Modena, a Venezia, e menziono queste città perché sono in effetti già candidate, quindi tra qualche mese gli appassionati di tecnologie esponenziali potranno aggregarsi non solo a Milano ma anche in queste altre città ed altre ancora forse per discutere e per, si spera, anche passare all'azione. Due parole su Singularity University. Non è un'università così come la intendiamo, così come le conosciamo. Che cos'è e che cosa si insegna e chi partecipa alle lezioni? E Peter Diamandis, che è un incredibile imprenditore di iniziative come viaggi privati nello spazio, lo sfruttamento minerario di asteroidi e di altre, assieme a Ray Kurzweil, inventore e adesso direttore dell'ingegneria di Google, è un gruppo di persone appassionate di tecnologia. Abbiamo disegnato Singularity University 8 anni fa. La sede è presso il centro di ricerca NASA in California, e con il supporto di Google abbiamo un corso estivo di 10 settimane, che è il più impegnativo ma anche il più stimolante, e poi corsi di una settimana per tutto l'anno, tipicamente per manager, direttori, investitori, imprenditori, persone che vogliono avere nuovi strumenti per decifrare il futuro. Quindi con i chapter italiani, quindi le chiamiamole divisioni, chiamiamole rappresentanze nel nostro paese, uno potrebbe partecipare ai corsi qui senza andare negli Stati Uniti. Al momento le attività dei chapter sono di aggregazione delle comunità locali di persone interessate e di divulgazione dei temi delle tecnologie esponenziali. Se in futuro ci saranno anche dei corsi, di questo c'è tantissimo interesse, è ancora da decidere, così come iniziative di vario tipo con aziende e istituzioni che esprimono non solo una grande curiosità ma desiderio di coinvolgimento e di partecipazione. Voi vi occupate principalmente, tu hai detto, di tecnologie esponenziali. Comunque il concetto delle tecnologie esponenziali è uno degli ingredienti principali per decifrare il futuro. Che cosa intendiamo? L'esempio che si fa più frequentemente è quello della legge di Moore, cioè come in informatica ogni 18 mesi all'incirca possano raddoppiare le prestazioni dei nostri device, per esempio di un telefono cellulare, diminuendone il costo e aumentandone le capacità. Oggi però, per illustrare le tecnologie esponenziali, voglio fare un esempio diverso, che è quello della decodifica del DNA. E se sei d'accordo magari racconto un po' proprio dando un esempio secondo me di grande impatto. Sì. E noi abbiamo un desiderio di conoscere non solo il mondo, ma anche noi stessi. E questo della scoperta del DNA è stato incredibile nel capire qual è la ricetta che poi va a costruire il corpo umano. Però fino a poco tempo fa, pur sapendo che cos'era il DNA, ogni individuo ne è uno diverso, non è che eravamo in grado di identificare i componenti individuali e personali. Nel 1985 il governo degli Stati Uniti ha messo a disposizione un budget di 3 miliardi di dollari per un progetto che con 15 anni di tempo mirava appunto a compiere questo, cioè essere in grado di leggere tutti i nucleotidi, e sono 6 miliardi di elementi, di un DNA umano. La cosa interessante è che 7 anni dall'inizio del progetto, dal 1985, erano solo a 1% del obiettivo. E persino gli esperti raccomandavano di fermarsi perché non c'erano 300 miliardi di dollari e 700 anni a disposizione per completare il tutto. Eppure, raddoppiando progressivamente dall'1% arrivando al 2% e al 4%, e lascio agli ascoltatori come esercizio a casa completare la sequenza, il progetto è arrivato in tempo a completare il tutto. E siccome la potenza delle tecnologie esponenziali non si ferma, da lì in poi è cominciata una precipitosa discesa dei prezzi e un aumento della velocità. Già adesso è possibile fare quello che ho appena descritto ad un costo di poche centinaia di dollari e in 1 o 2 settimane di tempo. E si prevede che nel 2022 sarà possibile fare questo praticamente in tempo reale ad un costo incrementale di un paio di centesimi. Quindi praticamente costerebbe nulla. Allora, quali sono le implicazioni di un cambiamento di questo tipo? Un po' come negli anni 80 Bill Gates diceva: voglio mettere un computer sulla scrivania di tutti, e sembrava una missione impossibile e per molti anche inutile. E oggi, se vediamo una scrivania senza un computer, ci chiediamo: ma quello lì tutto il giorno cosa fa? Così il mondo cambierà in conseguenza della disponibilità di una possibilità di questo tipo. Ma a che cosa potrebbe servire sequenziare, cioè leggere il DNA in tempo, già oggi con tempi e costi di un certo tipo, ma addirittura fra qualche anno in tempo reale a costi irrisori? Allora, a me piace sempre trasmettere il messaggio che la tecnologia è un gioco a somma positiva, non è un gioco a somma zero. Le facce negative e positive non si equivalgono. Però è troppo interessante effettivamente dare un esempio di una persona che vive già in un futuro che per altri arriverà fra qualche anno. In effetti l'autore di fantascienza William Gibson dice che il futuro è già presente, solo non è ancora uniformemente distribuito. E il presidente degli Stati Uniti vive già in questo futuro. È contornato dai servizi segreti che hanno tradizionalmente il duplice compito di proteggere il dollaro e buttarsi davanti a lui se qualcuno gli spara. E in effetti un dettaglio dei servizi segreti, invece di essere dotato di pistole, è invece dotato di aspirapolveri particolarmente potenti. E non precedono il presidente, ma lo seguono, pulendo ogni ambiente dove lui sia passato affinché non lasci tracce biologiche, un capello caduto, un lembo di pelle o un'impronta sul bicchiere da cui ha bevuto, perché agenti nemici non possano impossessarsi del suo DNA. E fanno anche il contrario, raccolgono tracce del DNA di capi di Stato stranieri. Al momento è un'attività diciamo preventiva, ma è possibile che con l'avanzare del campo della biologia sintetica, che invece di leggere il DNA scrive il DNA, si possano realizzare degli agenti patogeni rapidamente che hanno un'efficacia precisa contro un singolo individuo. E quindi una persona come il presidente degli Stati Uniti, che vive già nel futuro, deve pensare anche a come proteggersi da questi tipi di attacchi fantascientifici. Cioè, quindi io potrei realizzare, partendo dal DNA conosciuto, perché se prendo un capello da lì posso sapere qual è il DNA, realizzare un virus che uccide solo quella persona. E, ripeto, uno scenario di fantascienza che però si sta avvicinando, e questo tipo di organizzazione che ho descritto è apposta perché venga prevenuta la possibilità. Sì. Ti faccio una domanda che riguarda noi persone normali, non il presidente degli Stati Uniti. In uno scenario in cui sequenziare il DNA costa pochissimo e lo si fa in tempo reale, magari col nostro smartphone, questo a cosa potrebbe servirci? Allora, oggi siamo abituati per esempio ad avere le telecamere tranquillamente in centri commerciali, in un parcheggio, e ne accettiamo l'invasione sulla privacy. Diciamo che conviene monitorare certi ambienti perché abbiamo raggiunto un accordo sociale attorno a questo e riteniamo che appunto il bilancio di questo sia positivo. In un futuro, quando il DNA di ognuno potrà essere e sarà direttamente sequenziato, dovremo aver raggiunto, e il dibattito, la conversazione dovrà essere a quel punto conclusa, dobbiamo aprirla adesso, un nuovo accordo sociale su che cosa questo significa. Per esempio, se nel DNA di una persona ci sono tracce di una particolare predisposizione verso una malattia, in società come gli Stati Uniti, dove il servizio sanitario è privato e le assicurazioni possono sottoscrivere o rinunciare di accettare proposte di contratto in base a diversi criteri, ecco, non dare la protezione assicurativa ad una persona in base al suo DNA, in base alla sua predisposizione genetica, oggi magari è possibile, domani può darsi che la società deciderà che non sia legale. Oppure come il comportamento degli individui potrà essere cambiato dal fatto che, al contrario, io eventualmente so che non ho una predisposizione verso una certa malattia e quindi, al contrario, non voglio assicurarmi contro il suo insorgere, togliendo la possibilità di una comoda e necessaria mediazione statistica alle società assicuratrici. E quindi questo nuovo campo delle informazioni che diventano disponibili, un po' come oggi siamo abituati che con Google e Wikipedia e ad altre fonti, in una reazione quasi pavloviana, possiamo ognuno tirando fuori il telefono verificare un dato, ecco, domani un nuovo universo di informazioni sarà a nostra disposizione perché venga sfruttato, si spera, in una maniera positiva. E un esempio positivo sarà quello della medicina personalizzata, cioè comportamenti preparati, interazioni con l'ambiente, tutta una serie di azioni che ci potranno mantenere in salute basandoci su questa informazione così come su tante altre. Molto interessante, questo è un argomento su cui torneremo perché effettivamente apre tantissimi scenari. Ho pensato ad esempio alla pubblicità: se io in tempo reale riesco a leggere il DNA, a sapere certe cose, potrei addirittura fare pubblicità in base a questo tipo di informazioni. Ti, no? Ti faccio un altro esempio, noi siamo ogni individuo un ecosistema i nostri corpi sono fatti non solo di cellule umane, ma anche di batteri e il microbioma, cioè l'insieme di informazione genetica o proteica del nostro corpo nel suo insieme, potrà essere analizzato. Io, per esempio, sono sovrappeso e oggi come oggi la mia scusa perfetta è che non è perché sono pigro o mangio troppo, ma è colpa dei miei batteri intestinali, che sono troppo desiderosi a sua volta di nutrirsi ed è per quello che sono grasso. Che sia una scusa o meno, c'è una certa linea di pensiero che effettivamente mette in relazione comportamenti delle persone con il microbioma. E noi saremo in grado di analizzare a fondo, non solo in una data situazione, ma anche dinamicamente, l'evoluzione del microbioma. Se tu prendi un antibiotico, per esempio, uccidi la tua flora batterica intestinale. E ci sono studi secondo cui l'insorgere di certe allergie, di certi problemi digestivi o di altro tipo, possano essere dovuti a degli squilibri della flora batterica, e quindi come questo può essere analizzato ed eventualmente ricostruito può essere un campo di analisi estremamente fruttuoso ed importante. Prima di salutarci, David, che cos'è Global Impact Competition che in occasione del lancio del chapter di Milano della Singularity University avete lanciato? Di cosa si tratta? È un concorso che dal 15 febbraio al 15 marzo permette ad un italiano di candidarsi per vincere poi una borsa di studio con cui andare nelle 10 settimane estive alla NASA presso la Singularity University e parlare assieme ad altri 80 studenti e tutti i docenti di cose come quelle che abbiamo menzionato oggi, ma anche viaggi nello spazio, energia, robotica, nanotecnologie, intelligenza artificiale, ma anche etica e morale e legge e policy making in un futuro che sta arrivando. E la Global Impact Competition è organizzato dal chapter appunto Singularity U Milan con il supporto dei nostri sponsor aziendali, ma è anche supportato o può essere supportato, se lo vorranno, dagli ascoltatori, perché abbiamo anche lanciato una campagna di crowdfunding su Indiegogo, dove con un euro, 10 euro o 30 euro chiunque può sentirsi partecipe di questa avventura, e a seconda di quanto riusciamo a raccogliere metteremo in palio anche dei secondi e terzi premi per persone che non andranno in California, ma con le risorse e il supporto della comunità del chapter e dei chapter italiani di Singularity University potranno con le tecnologie esponenziali avere un impatto positivo sulla vita della loro comunità e dell'Italia intera. Molto bene, Davide, grazie per essere stato con noi, a presto e anche in bocca al lupo per tutte queste nuove iniziative. Grazie a te. Abbiamo parlato tante volte di smart home, cioè di tutte quelle tecnologie che si connettono alla rete internet, che si basano su una connessione ad internet e poi sono piene di sensori che fanno diventare più intelligente la casa. A volte queste tecnologie sorprendono per la inutilità. Allora, ne parliamo cercando di capire che cosa invece è utile con Gianfranco Giardina, che torna nei nostri studi. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Siamo stati particolarmente critici negli ultimi 2-3 anni e lo siamo ancora nei confronti di questo macro ecosistema chiamato smart home, la casa intelligente fatta di tanti pezzi di tanti oggetti che si collegano allo smartphone, a internet, e dovrebbero far diventare più intelligente la casa. Perché siamo critici? Per due motivi. Un primo motivo è che troppe volte tutti i sistemi riferibili a questo concetto di casa intelligente sono delle monadi, cioè non parlano tra di loro, non parlano quanto dovrebbero, quanto vorremmo. E quindi questo è un primo limite. La cosa si risolverà, e quindi siamo in compenso, siamo critici sul presente, ma siamo molto fiduciosi per il futuro. Il secondo aspetto per il quale siamo critici, lo siamo stati in passato e ancora purtroppo tocca esserlo, è il modo in cui molti media trattano questo argomento, cioè nei servizi dalle grandi fiere che vediamo ai telegiornali, piuttosto che anche sui quotidiani, qualche volta capita veramente di leggere degli esempi che sicuramente faranno dire wow ai meno informati, ma sono esempi assolutamente poco sexy nella vita reale, possono essere molto strani. L'esempio più classico è la possibilità di accendere il forno dall'ufficio. Non credo che nessuno sano di mente accenderebbe un forno dall'ufficio senza avere certezza che non vada nulla a fuoco, che tutto sia sotto controllo. E poi soprattutto accendere il forno dall'ufficio presuppone il fatto che la mattina prima di uscire si sia messo in la forno, torta in forno, la torta oppure il pollo che ovviamente deperisce velocemente. Quindi è un esempio totalmente senza senso. Esistono invece delle applicazioni veramente utili che già oggi si possono fare, di cui però, forse perché sono un po' meno sexy da raccontare, di cui però non parla quasi nessuno. Sì, in questo sbagliano anche le aziende stesse, che nella comunicazione troppo spesso danno importanza appunto a questi esempi per farli uscire sulla stampa, ma poi si perdono tutto il resto di serio che comunque molte aziende stanno costruendo. A proposito di aziende e a proposito di confusione all'interno di questo mondo, tante aziende stanno cercando di imporre il proprio standard, il proprio linguaggio. Quindi tutti dicono: noi abbiamo il proprio linguaggio, è aperto a tutti gli sviluppatori, quindi tutti possono sviluppare sulla mia piattaforma, ma visto che ce ne sono già 5-6 almeno di grandi aziende che stanno proponendo questo concetto, al momento il risultato finale è quello che dicevi tu prima, cioè io, se sono fortunato, riesco a creare un piccolo sistema con un'app o qualche app, poi però se compro la marca XY devo cambiare completamente sistema. Sì, in questo momento l'uomo è il centrastella del sistema. L'uomo e il suo smartphone, cioè tutta questa intelligenza che mettiamo in casa è controllabile con delle app. Normalmente, almeno che non si comprino appunto apparecchi della stessa marca, ogni apparecchio ha la sua app, quindi un'app per accendere luci colorate, un'app per controllare il clima, un'app per accendere le luci, un'app per vedere il meteo, un'app per accendere l'irrigazione. È chiaro che in questo sistema l'intervento umano è ancora basilare, cioè sono io che guardo che temperatura c'è, decido se il giardino va innaffiato oppure no, vedo il meteo, che previsioni ci saranno, e di conseguenza accendo o spengo l'irrigazione. Questo ovviamente richiede ancora un intervento umano che potrebbe essere francamente sostituito, facilmente sostituito, da una serie di decisioni, cioè se non piove da più di una settimana, se ci sono più di 25 gradi, se accendi l'irrigazione automaticamente. Poi lo si può fare già oggi, però in modo un po' complicato. Ci stiamo parlando di cose, quello che su cui insisto spesso, dobbiamo sperare, e l'obiettivo finale deve essere strumenti facili per tutti, non per gli smanettoni che sono capaci di o fare un minimo di programmazione o comunque settare uno strumento. Beh, lo scopo deve è quello di semplificare la vita. Ma molto, esatto. E lo smartphone ha successo perché è veramente semplice, lo sanno usare anche i bambini. Ecco, però oggi, parlando di smart home, qualcosa si può fare. Assolutamente sì. Ad esempio. Ma parliamo per esempio dell'impianto elettrico, e quindi di tutto quello che si può fare con le tipiche accensioni, l'illuminazione e tipicamente le tapparelle o le tende motorizzate per chi ce le ha. In questo caso è chiaro che un atteggiamento radicale è quello di rivedere l'impianto cose che si fanno normalmente solo in fase di costruzione di una nuova abitazione o di ristrutturazione, per adeguarlo alle tecnologie smart, quindi alla possibilità di controllare l'impianto elettrico via smartphone, e che è un primo requisito che può essere comodo, per esempio, per intervenire da remoto accendendo, spegnendo le luci che magari si sono dimenticate accese, piuttosto che aprendo una motorizzazione, una basculante di un box, per esempio, per far entrare qualcuno che dall'altra parte per telefono mi sta chiedendo se può lasciare qualcosa nel mio box, per esempio, posso aprire e chiuderlo da remoto. Quindi ci sono un sacco di cose che possono essere fatte, ma soprattutto poter gestire un impianto elettrico cosiddetto domotico, non è una parola che mi fa impazzire, ma è molto utilizzata, dà alcuni vantaggi in teoria molto semplici, ma molto utili. Per esempio, le accensioni e gli spegnimenti cosiddetti di gruppo, quindi il fatto di poter programmare facilmente dei tasti o delle funzioni sullo smartphone anche, ma più facilmente anche dei tasti, che sono, parliamoci chiaro, il tasto è sempre disponibile, non bisogna neanche accenderlo, basta schiacciarlo, quindi per chi è in casa è più comodo un tasto dello smartphone. Ecco, un tasto, un pulsante che permetta per esempio lo spegnimento di tutte le luci, che per esempio messo di fianco alla porta di casa ed una comodità incredibile, non bisogna fare il giro di tutte le stanze, spegnere le luci per verificare. E qui stiamo parlando di uno smart di anni fa. Ma di anni fa, assolutamente, senso, però è la vera funzione più utilizzata negli impianti elettrici bus, quindi diciamo intelligenti, è quella di avere degli spegnimenti di gruppo, oppure la possibilità di avere il chiudi tutte le tapparelle o apri tutte le tapparelle. Chiaramente le tapparelle devono essere motorizzate, ma oramai lo sono sempre più, soprattutto nelle abitazioni di nuova costruzione, o comunque possono essere facilmente elettrificate anche quelle vecchie. In questo modo, senza fare prima di questi impianti intelligenti, per fare un sistema di centralizzazione dell'apertura e delle chiusure delle tapparelle bisognava passare per la casa molti fili per collegare tutte queste tapparelle. Adesso passa un bus o addirittura ci sono dei sistemi in radiofrequenza, per cui è facile realizzare situazioni di questo tipo. O ancora un cosiddetto cammino notturno, per esempio potrei avere a fianco al comodino un tasto che mi permette di accendere le luci in casa a una bassa intensità, per permettermi magari di fare quelle operazioni notturne, andare in bagno, andare in cucina per uno spuntino, per un bicchiere d'acqua, senza disturbare i miei familiari, perché non accendo tutte le luci, ma soltanto alcune luci strategiche. Senti, per chi non è nella condizione di o costruirsi la casa nuova, che è ormai diventata una cosa da fortunati, o ristrutturarsi, cosa invece un po' più popolare, si possono fare delle aggiunte magari sfruttando alcuni aggeggi che funzionano con il Wi-Fi? A me non è che mi fa impazzire il collegamento Wi-Fi, però ad esempio una presa Wi-Fi che per uno strumento particolare che io posso comandare con lo smartphone anche se sono in ufficio potrebbe essere un'idea. Assolutamente sì, questa è la domotica, diciamo, che parte dal basso, quindi quella che non richiede una revisione dell'intero impianto. Ovviamente non è un sistema integrato che tocca tutta la casa, ma tocca soltanto i punti dove siamo andati a lavorare. Si può per esempio aggiungere delle lampade Wi-Fi, quindi controllabile via Wi-Fi, sia lampade luce bianca piuttosto che luce RGB, quindi luce colorata, dove andiamo a decidere anche il colore, la tinta e l'intensità della luce, oppure delle semplici prese comandate. Le prese comandate sono prese che vengono attaccate a delle altre prese, quindi restituiscono la presa che occupano, ma lo fanno con la possibilità di essere comandate via Wi-Fi dallo smartphone. In questo modo io dallo smartphone posso accendere o spegnere, sia che io sia in locale, sia che sia in remoto. Sono comode queste prese comandate, perché permettono di rendere smart una presa qualsiasi, ma hanno anche una piccola scomodità, a meno che non vada a mettere anche un interruttore Wi-Fi, un pulsante Wi-Fi, devo per forza accendere lo smartphone e dallo smartphone dare il comando. Non è proprio semplice come avere un sistema domotico integrato, quindi un pulsante integrato nel muro, che è ancora la cosa più facile, più normale. Sì, anche in questo caso effettivamente uno dice il nuovo che avanza, cioè tutte le proposte nuove, non sono così convincenti per un utilizzo diffuso, anche perché questi strumenti non costano pochissimo. Una presa Wi-Fi con 30-50 euro li costa. Sì, sì, ma ci sono delle applicazioni specifiche che possono essere però interessanti giustificarlo. Bisogna sempre avere in mente una missione, cioè non comprare una presa comandata e poi vediamo cosa ci farò. Sì, sì, sì, certo. Per esempio posso usarla come sveglia. Siccome queste prese possono essere anche poi programmate, cioè l'accensione può essere programmata, per esempio c'è chi ama svegliarsi con una sveglia che fa un rumore terribile perché se no non si alza, oppure chi ama magari svegliarsi con Radio 24 perché no, e quindi lo fa con una radiosveglia, ma potrebbe farlo anche con una presa comandata che accende un impianto Wi-Fi. E quindi per sentire meglio potrebbe farlo accendendo una lampada perché preferisce svegliarsi con un po' di luce, o per esempio alzando le tapparelle e quindi utilizzando quantomeno nelle stagione estiva, non proprio quella invernale, utilizzando la luce ambiente. Quindi per ogni utilizzo ci sono poi tante applicazioni che possono essere interessanti. Ovviamente le esigenze cambiano da persona a persona. Certo, certo. C'è chi anche è interessato a collegare la bilancia allo smartphone. A me me frega niente, però ci sono anche queste possibilità. Abbiamo visto nelle ultime fiere un sacco di proposte. La bilancia, i sistemi di misurazione della pressione, i glucometri, quindi per i malati di diabete, esatto. Per esempio però tenere traccia nel tempo, tenere un diario automatico delle misurazioni può avere un senso. Certo, certo. Clima, questo è interessante. Beh, il clima è un'applicazione principe, cioè la possibilità innanzitutto di rendere smart le centraline di riscaldamento. Le centraline di riscaldamento oggi sono tipicamente quelle più utilizzate, sono abbastanza stupide, cioè sono un cronotermostato, cioè un termostato si imposta una temperatura di conforto, una temperatura minima e massima, una programmazione oraria settimanale. No, che però prevede il fatto che noi magari il sabato e la domenica ci sia riscaldamento alto perché siamo tendenzialmente a casa, ma magari non è vero perché andiamo via quel weekend, sì. E magari in settimana si è invece tendenzialmente freddo perché siamo in ufficio, ma quel giorno lì magari non siamo in ufficio perché stiamo poco bene e quindi dobbiamo andare ogni volta a toccare la centralina. Ecco, queste centraline intelligenti cosa fanno? Sostituiscono quelle vecchie, quindi sono normalmente compatibili con la stragrande maggioranza delle caldaie disponibili e permettono di fare molte cose. Innanzitutto di essere controllate via smartphone, e questo è un vantaggio perché posso controllarle facilmente da remoto. Quindi per esempio sto tornando a casa in un orario non previsto, ecco, posso incominciare a dare accendere riscaldamento dando il tempo all'impianto di mandare la casa in temperatura, perché poi non sono mai istantanee queste cose. E allo stesso modo il sistema può capire che sto tornando a casa perché lo smartphone mi geolocalizza e quindi può suggerirmi l'accensione della caldaia, o addirittura, se programmato opportunamente, non lo fa senza permesso, ma se programmato opportunamente può addirittura pensare spontaneamente a dare l'input dell'accensione. E quindi la geolocalizzazione del proprietario o dei proprietari, perché sono sistemi che possono essere poi regolati anche su più smartphone e quindi su più utenti, può dare questo input. I sistemi più evoluti sono anche in grado di incrociare tutte le informazioni che hanno a disposizione, essendo termostati collegati a internet. E quindi, per esempio, la temperatura esterna, che è un parametro fondamentale, perché se la temperatura esterna sta scendendo molto, poi l'abitazione ha delle perdite termiche, bisognerà magari accendere un po' prima il riscaldamento per essere certi che alle 18 ci siano i 21 gradi che magari ho richiesto. Se invece fuori fa molto caldo non servirà neanche accendere. Se queste cose però vengono già utilizzate, almeno nelle case nuove, o mica tanto? Cioè stiamo parlando effettivamente ancora di una frontiera. Beh, nelle case nuove, come consegnate dai costruttori, la risposta è no. Nel senso che... Ma io ti dico anche case fatte proprio in proprio quasi. Sì, sì, sì, sì, perché non c'è ancora una piena conoscenza. Bisogna per esempio pensare al fatto che alcuni termostati per esempio sono anche in grado di analizzare le previsioni del tempo e quindi non solo comportarsi sulla base delle temperature correnti, ma delle temperature che arriveranno, e quindi magari fare un minimo di serbatoio di calore in casa sapendo che la notte sarà molto rigida. E quindi in questo modo innalzano non poco il comfort, e contemporaneamente permettono un discreto risparmio energetico, perché ovviamente, come aumentano il comfort quando ci sono, evitano di spendere soldi in riscaldamento, in gas, gasolio che sia, eccetera eccetera, per quando sono magari lontano da casa e non c'è presidio. Queste cose o altre soluzioni possono essere utilizzate anche per il condizionamento, quindi per il raffrescamento degli ambienti, ecco, sia che sia centralizzato tramite una centralina, ma anche, io ho visto delle cose interessanti con degli oggetti che vanno appiccicati agli split e fanno in modo che lo split possa essere governato dallo smartphone, quindi in modo in remoto, programmato. Assolutamente eccetera. Sì, la logica è la stessa, sono prodotti più nuovi, cioè pensato prima alla parte di riscaldamento, adesso si sta arrivando a quella di raffrescamento. Anche qui, se per caso ci si sta propinquando a casa, il sistema consiglia l'accensione perché in casa ci sono più di tot gradi che noi abbiamo impostato come soglia. In quel caso possiamo accendere, arrivare in una casa già fresca, sappiamo d'estate, soprattutto l'estate scorsa che è stata molto, molto calda, quanto possa essere piacevole arrivare in una casa già un po' raffrescata di quanto invece non sia arrivare in una casa ancora bollente con i muri caldi e poi cercare di recuperare il tempo perso. Tra l'altro si utilizza anche le macchine, il climatizzatore, in un modo più corretto, cioè invece di spararlo a tutta velocità, a tutta forza per cercare di raffrescare non appena arriviamo a casa, può essere usato in un range di utilizzo migliore, più efficiente e con una partenza leggermente anticipata. Non è vero che si spende di più, si finisce per spendere di meno. Tanto se la casa è calda, a raffrescarla dobbiamo sottrarre quelle quantità di calorie, quindi l'energia necessaria teorica sarà quella. Certo. Però se lo facciamo con un approccio più graduale, in realtà la macchina lavora in un range più efficiente e consumiamo meno. Sì. Volevo concludere con una considerazione su gli professionisti, perché quando parliamo di casa, molto spesso le famiglie giustamente si rivolgono a l'elettricista, l'idraulico, comunque l'impiantista che fa, poi trasforma, rinnova o ci installa una macchina nuova. Stiamo parlando di una tribù, chiamiamola così, che si è adeguata con i tempi o poco? Stiamo parlando di professionisti e quindi io tendo a ritenerli comunque bravi. No, poi ci sono anche i cattivi professionisti, certo, ma stiamo tra i bravi professionisti che hanno visto negli ultimi anni uno stravolgimento tale dell'ambito nel quale lavorano che spiazzerebbe chiunque. Quindi è chiaro che sono persone che stanno vivendo un periodo professionale complicato. No? Chi si è aggiornato e si è aggiornato molto bene ha davanti delle opportunità incredibili, perché riesce a fare delle proposte molto più evolute e tutto sommato dare un servizio anche migliore. Il problema qual è? Che bisognerebbe poter sperimentare. Bisognerebbe poter avere sia il tempo che le disponibilità finanziarie per, parlo dell'elettricista di turno, per poter installare per gioco, mi viene da dire, provare, di questi impianti, per provarlo, per conoscerlo, eccetera, eccetera. Perché il rischio che un professionista di questo tipo vede installando un qualche cosa che non conosce bene è di avere poi soltanto per la messa a punto, soltanto per spiegare al cliente, soltanto per raggiungere l'equilibrio corretto, tante di quelle grane e quindi tempo perso che per un professionista è denaro, tali per cui si tende a proporre sempre l'impianto vecchio che conosco bene, che funziona, che è affidabile, eccetera eccetera. Non è vero che nuovi sistemi siano meno affidabili, alcuni lo sono, bisogna conoscerli, tocca studiare. E ahimè, questo per un professionista ha un costo secco. Le grandi aziende, che non sempre coincidono con quelle che propongono questi apparecchi smart, soprattutto questa domotica che parte dal basso, quelle dei piccoli device, molte sono startup, quindi le grandi società sono quelle che fanno formazione e quindi sono quelle che formano sui propri impianti, ma normalmente non hanno tutti questi apparecchi di Internet of Things, quindi di intelligenza diffusa. E quelle che hanno questi apparecchi di Internet of Things sono moltissime e non riescono a fare ancora massa critica e a fare quindi la giusta formazione per i professionisti. È un iter. Molte volte queste innovazioni sono pilotate proprio dal committente, che magari perché è giovane, perché è tecnovocato, per mille motivi, perché ascolta 2024, vuole quella cosa. Vuole. Dice, voglio il termostato che... intelligente. Allora, a quel punto il professionista è costretto a documentarsi, e lo fa. Non è cattiva volontà, ovviamente, ma è come dire, un'analisi costi-benefici che nel breve termine premia il professionista più pigro, ma nel medio termine lo punirà. Quindi è bene che tutti si studino, come facciamo noi. E infatti è un invito, è un invito questo, insomma, a adeguarsi e a studiare le proposte nuove che ci sono sul mercato. Non vi racconto, infatti non lo racconto, ma lo accenno solo, la fatica che ho fatto per installare un sistema di impronta digitale a casa privata, e quindi non entriamo in ambiti di privacy, per aprire la porta. Che secondo me è la cosa più comoda del mondo, perché uno arriva, striscia il dito, e se si è dimenticato la chiave... Sì, il dito di solito non se lo dimentica. Non te lo dimentichi, esatto. Grazie Gianfranco Giardina, a presto. Grazie mille. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione. Speriamo che abbiate gradito i contenuti anche di questa puntata e abbiate gradito anche che cerchiamo di portare i nostri ospiti davanti ad un microfono senza utilizzare il telefono quando è possibile. Non sempre è possibile. Comunque questo è uno, diciamo, sforzo organizzativo che speriamo apprezziate. Dunque, come sapete, io chiedo ai nostri ascoltatori che ci ascoltano in podcast on demand, come si dice, quando e come ci ascoltate. Dunque, allora, sul quando, al primo posto c'è lo sport, cioè vari sport, molti corrono, ma insomma non solo, comunque sport al primo posto. Poi c'è trasferimento casa-lavoro o viaggi di lavoro, c'è chi lavora prevalentemente in automobile perché si sposta da un punto all'altro di una città o dell'Italia e quindi ci ascolta in automobile. Poi è entrata, diciamo, andata sul podio recentemente le pulizie, cioè molti ascoltatori ci ascoltano 2024 mentre fanno le pulizie. Questa è entrata in classifica recentemente. Comunque continuate a scriverci. Recentemente ho fatto un sondaggio via Twitter, ma vi invito a rispondere anche via email 2024@radio24.it sul come ci riascoltate, cioè tramite quale applicazione sullo smartphone. Allora, a parte quelli che ci ascoltano in streaming direttamente dal sito internet, è interessante perché c'è un panorama di applicazioni le più varie. Allora, chi utilizza iOS utilizza l'applicazione podcast di Apple, quella ufficiale, effettivamente funziona molto bene, non c'è problema. Allora, per quanto riguarda Android, il variegato mondo di Android, al numero uno incontrastata c'è Podcast Addict, quindi la stragrande maggioranza di cui ha risposto ci ascolta tramite Podcast Addict. Però segnalo anche altre applicazioni che sono comunque interessanti, magari uno le può provare. Allora, Beyond Pod, alcuni ascoltano con Beyond Pod, e poi c'è Overcast, Castamatic e Pocket Cast. Però io tengo nota, segnalate che cosa utilizzate. Allora, se uno, ci sono anche altre applicazioni oltre a questi, ma sono arrivate una, due, tre segnalazioni, allora magari non le ho inserite nella classifica. Comunque, numero uno assoluto, Podcast Addict. A proposito di ultime cose che volevo dire, non ho messo all'interno delle digital news perché non sono, una non è ancora diventata una notizia, l'altra è una curiosità soprattutto per, non dico gli addetti ai lavori, ma quelli appassionati di 4K Ultra HD. Allora, la notizia che riguarda il 4K, il debutto nei negozi americani in questo weekend nella catena Video and Audio Center del primo lettore Blu-ray 4K. Si tratta del Samsung UBD, che sta per Ultra Blu-ray Disc, il K8500. Sul mercato esce anche il primo disco Blu-ray 4K, che è The Martian, quindi uno si può comprare sia il lettore che il disco. Per quanto riguarda invece l'altra, che non è ancora diventata una notizia, per il momento c'è solo una trattativa, ma è molto interessante, in corso tra Sharp e Foxconn. Foxconn è il più grande produttore conto terzi di elettronica di consumo, produce gli iPhone, ma produce un sacco di altre cose che probabilmente abbiamo nei nostri uffici, nelle nostre case, nelle nostre tasche. Potrebbe acquistare la Sharp, l'azienda giapponese, sta valutando questa offerta, in realtà ne sta valutando anche un'altra, ma deciderà entro fine mese. È sicuramente molto interessante seguire questa trattativa. Bene, tutto per questa puntata di 2024, ancora un ringraziamento. Il nostro indirizzo è 2024@radio24.it, il mio indirizzo di fatto, e potete utilizzare anche Facebook o anche Twitter. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.